E questa mostra alla Fondazione Sabe è legata a un progetto di ricerca, appunto, come diceva, un progetto di ricerca nazionale che nasce da un gruppo di Atenei, quello di Bologna, coordinato da me e dall'Ateneo di Roma La Sapienza, con Raffaella Perna La Raconte, e l'Università di Parma con Cristina Casero. La domanda cos'è la fotografia femminista è quella che ci siamo poste per prime noi, anche da un punto di vista terminologico. Abbiamo adottato questo termine decidendo, anche sulla scorta di una studiosa americana che si è occupata di donne di estetiche, donne fotografe, si chiama Claire Raymond, di non dargli una valenza strettamente militante, cioè di donne che hanno fatto della fotografia e dell'arte uno strumento per agire, diciamo, nel pubblico, nel sociale, come azione femminista consapevole, ma abbiamo voluto dare a questo termine un significato molto più ampio, che sta per noi nell'immettere nelle immagini che si realizzano, quindi nelle fotografie, nel fare delle fotografie, oggetti che trasportano dei significati femministi, a volte anche in contesti o in situazioni in cui appunto la consapevolezza, la scelta, la volontà non erano così chiare, come può essere per esempio per artiste storiche della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento. E quindi femminista perché in quelle immagini si propone una visione del mondo, una percezione delle cose, una dichiarazione di esistenza da una situazione, possiamo dire, non dominante, no? Da uno sguardo dominante, da condizioni che sono spesso condizioni liminari o alternative. Non ci interessa soltanto, naturalmente molto, ma non soltanto la fotografia degli anni 60 e 70 o dopo, dove il termine di femminismo sicuramente in Italia ha una valenza molto chiara e precisa, ma anche situazioni più alternative, più definite, ecco, ma non nel messaggio, nelle immagini che sono state realizzate. La collezione di Donata Pizzi, invece, che sarà esposta a Ravenna, quali sono le poetiche delle artiste presenti e se ci sono appunto delle continuità poi con le artiste precedenti o delle discontinuità invece? Ci tengo a specificare che non è solo, certo, è una mostra di fotografia femminista, ma anche una mostra che parla di una storia dentro alla storia, cioè di una storia di una collezionista. Lei stessa è ovviamente persona impegnata e fotografa che una decina di anni fa verifica sicuramente la necessità di ricostruire o comunque dare valore, dare cornice, dare significato alla presenza delle donne artiste e fotografe in Italia, e quindi inizia questo suo percorso, questa sua avventura, forse, ecco, possiamo dire in Italia in tempi ancora abbastanza incredibilmente acerbi, e che oggi invece è una realtà eccezionale ed evidentemente di grande interesse, di grande attualità. Quindi nella mostra c'è una selezione anche per ovvi motivi, perché è uno spazio, diciamo, di una fondazione, di una galleria, ma Donata Pizzi ha avuto anche proprio da una collega che fa parte del progetto, cioè Raffaella Perna, l'attenzione di mostre alla Triennale, alla esposizione di Roma, quindi insomma un'attenzione particolare. Qui ho scelto di fare una selezione che mettesse in dialogo su alcuni temi chiave, quindi su alcune dimensioni che mi sembravano più vicine a questa idea di fotografia femminista, le generazioni, quindi la generazione degli anni 60-70 e le generazioni più vicine, perché la collezione Donata Pizzi non è una collezione storica nel senso di artiste, fotografe, per esempio dalla fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, ma parte, ecco, nel secondo dopoguerra. Quindi nel caso della selezione di Donata Pizzi, della collezione Donata Pizzi, il dialogo intergenerazionale è tra la generazione degli anni 60-70 e quelle successive. Lei mi chiedeva attorno a quali idee, a quale poetiche, ecco, io ne ho evidenziate quattro, che non sono soltanto dei temi evidentemente cari e vicini a queste artiste, ma sono anche dei temi, delle idee del fotografico molto, molto forte. Sono quelle dell'album di famiglia, con i lavori storici, un lavoro storico di Tommaso Binga e di artiste più giovani come Moira Ricci e Albazzari, il tema dell'identità di genere con una fotografa per lungo tempo anche abbastanza così dimenticata, lasciata ai margini anche della storia della fotografia italiana, anche per sua scelta di isolamento, che è Lisetta Carmi con Giulia Iacolutti, il tema degli stereotipi e degli spazi di genere con un lavoro storico molto famoso, la serie delle casalinghe di Liliana Barchesi, messa a confronto con alcuni lavori di Alessandra Spranzi, e infine ruoli e censure sociali tra Lucia Marcucci, artista storica della Avanguardia Verbo Visiva, con un'artista più giovane che è Martina Della Valle. A questi dialoghi intergenerazionali attorno a questa dimensione del fotografico ho aggiunto un lavoro molto noto di Paola Mattioli, che è una scultura oggetto, cosa ne pensi del movimento femminista, e la riproduzione di alcune maquette realizzate da alcune delle artiste del gruppo del mercoledì che poi confluirono in un testo appunto storico per chi si occupa di arte femminista in Italia, che è il volume Ci vediamo mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo, pubblicato da Mazzotta nel 78, dove a fianco di Paola Mattioli, Mercedes Kuman, Silvia Truppi, Diane Bond, insomma altre artiste che lavorarono insieme in questa forma di diario collettivo e di autocoscienza tra artiste e donne femministe.